Ecco, noi Eleonora Pippo per parlare dello spettacolo Le ragazzine stanno perdendo il controllo, la società le teme, la fine è azzurra. Al Teatro India a Roma il prossimo 3 giugno. Un benvenuto a Eleonora Pippo che lo ha ideato e diretto. Ciao Eleonora! Ciao Federico, ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Lo descriveresti così brevemente? Si tratta di un lavoro tratto da un fumetto che ha per l'appunto questo titolo. Il fumetto è un fumetto di Ratiger e racconta la storia di due ragazze, di ragazzine delle medie, di 13 anni, con la passione per le analisi mediche. Diciamo, per mettere in scena questo lavoro, invece di formare una compagnia tradizionale, che poi così va in giro come di tradizione, ho deciso di essere io quella che va in giro e di formare le compagnie locali temporanee di ragazze dai 13 ai 18 anni che stanno con me una settimana e in una settimana, ogni volta lavoriamo alla creazione di uno spettacolo nuovo, una performance originale, sul filo conduttore della trama di questo fumetto. Ok, e qual è la trama? Dicela un po' in. Sono vicende di due ragazze, dell'amicizia di queste due ragazze, alle scuole medie. Che diciamo per far fronte ai momenti di vuoto o di noia o anche di difficoltà che possono incontrare, decidono di fare delle TAC, degli esami del sangue, delle cose di questo genere, che le aiuta in realtà ad individuarsi, a vedere scritto da qualche parte che loro esistono. Ecco, più o Sì. meno è questo quello che accade. Senti, com'è partita l'idea? Beh, l'idea è partita da questo titolo, Le ragazzine stanno perdendo il controllo. Quando io ho sentito questa cosa, così mi sono subito incuriosita e poi leggendo il fumetto, ho capito che c'era qualcosa di interessante, molto, molto interessante. Il fumetto è molto bello, come dicevo, è un lavoro di Ratiger, è un lavoro anche premiato al Napoli Comic Con come miglior fumetto e poi appunto immaginavo delle ragazze molto giovani in scena quindi con un grande potere, diciamo, perché appunto co cosa che accade in questo lavoro, no? Perché queste ragazze sono naturalmente non professioniste, Sì. data l'età. E non solo, e non solo. E in una settimana portano in scena sia questo fumetto, sia contribuiscono all'ampliamento della drammaturgia con dei pezzi che loro stesse scrivono, sia guidano il pubblico nell'interazione nel portare in scena insieme a loro lo spettacolo, perché questo accade durante l'unica replica di questo lavoro, perché c'è solo una, va in scena ogni compagnia va in scena un'unica volta, il pubblico viene coinvolto direttamente e guidato dalle ragazze. Senti, qual era l'elemento o gli elementi forti del fumetto che ti hanno entusiasmato? Sicuramente l'indagine sul corpo, sicuramente, e poi la rabbia cieca che c'è nei comportamenti di queste ragazzine, in particolare di una delle due, di Castracani. Le ragazzine si chiamano per cognome Motta e Castracani, le due amiche. E Castracani è guidata da questo sentimento molto forte, che la Sì. porta a sfidare con violenza il mondo fuori di lei, fuori dal suo corpo, no? Per cui insegnanti, genitori, compagni di classe, senza regole, con grande violenza e disperazione. È un po' così, ed è per questo, ed è questa una cosa che mi è piaciuta molto. Sì. Eleonora, nelle tappe precedenti, com'è stata l'interazione con queste ragazzine e per di più non professioniste? Il lavoro è stato fatto a Soliera, quindi in provincia di Modena, Sì. e poi a Genova, al Teatro della Tosse, che è anche coproduttore di questo progetto. L'interazione è stata molto particolare con le ragazze più piccole, nel senso che entrare in relazione con delle ragazze di 13 anni mi ha portata a spostarmi completamente da dei preconcetti che potevo avere o delle idee di messa in scena. Quella cosa lì ogni volta io la devo dimenticare, no? Sì. Per ascoltare veramente il mondo di queste ragazze. Ed è una sorpresa molto forte. In particolare a 13 anni è uno stranissimo momento dell'esistenza, in cui di grandissimo passaggio è quasi una pre-vita, una cosa del genere, molto particolare. Senti, Eleonora, c'è per saperne di più un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? Allora, del progetto c'è la pagina Instagram il progetto si chiama Le Ragazzine Project. Poi c'è la pagina Facebook, Le Ragazzine Stanno Perdendo il Controllo, il sito internet www.leragazzinestannoperdendoilcontrollo.com. Per leggere il fumetto, perché si può fare, il fumetto non è leggibile in cartaceo, ma è leggibile in free download da un sito che si chiama retina.org. Allora, ricordiamo l'appuntamento a Roma. Sì, Il 3 giugno le ragazzine stanno perdendo il controllo, la società le teme, la fine è azzurra, al Teatro India. Un saluto, un ringraziamento a Eleonora Pippo, è sempre un piacere Eleonora, che lo ha grazie a ideato voi, e grazie a te diretto. Federico, grazie. A presto, ciao Eleonora, t'abbraccio. Presto.